può ritornare che uomini, donne e bambini vengano privati della loro dignità ancor prima che della loro vita. Così, nel vento di Auschwitz, la citazione dei sommersi e i salvati evocata da un altro sopravvissuto, Marek Alter, obbliga ad immaginare occhi, volti, destini, dietro ogni scarpa, dietro ogni paio di occhiali, dietro ogni capello, perché finalmente, liberati dai numeri nella memoria, tornino ad essere uomini, donne, bambini, come Victor Ullmann, come Gideon Klein, come tutti gli altri musicisti ebrei uccisi in questo campo, ma sopravvissuti con le loro note, ora ancora diffuse da un pianoforte e portate nel mondo dal vento di Auschwitz. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.